Letture di Radio 24. I pellegrinaggi verso i luoghi di devozione, diffusi a partire dall'Ottocento e rilanciati oggi da una massiccia presenza sulla rete, hanno rappresentato la prima forma di turismo di massa. Nel libro Italia Devota, che Sergio Luzzatto commenta sul domenicale del Sole 24 Ore, Emma Fattorini analizza le radici storiche e culturali del fenomeno. La Fattorini non appartiene a quel genere di storici che trattano la materia di fede come qualcosa da sbugiardare piuttosto che da interpretare. Non ritiene che si debba applicare alla devozione dei pellegrini del XX secolo o del XXI l'antidoto della ragione e magari del sarcasmo. Non le importa sostenere che le cinque piaghe di Padre Pio erano il frutto di un'impostura, che le guarigioni miracolose di Lourdes non hanno mai guarito nessuno, che nessuna Madonna è mai apparsa davvero nel cielo portoghese di Fatima, eccetera. Perché il punto non è questo. Lo storico non è né un medico né un giudice. Al pari dei migliori studiosi stranieri delle apparizioni mariane, la Fattorini ritiene che le devozioni vadano restituite alla complessità culturale e antropologica del loro tempo. Soltanto a prima vista si tratta di fenomeni anacronistici, residui di arcaismo delle nostre società secolarizzate. A guardare meglio, sono espressioni della più dispiegata modernità. Quando producono miracoli di guarigione, si tratta spesso di devozioni certificate, così a Lourdes, dal sigillo ufficiale della scienza medica. Si tratta di devozioni alimentate da tutta una serie di infrastrutture di trasporto, comunicazione, marketing, che hanno reso il turismo religioso la prima forma di turismo di massa. Si tratta di devozioni spesso recuperate dalla politica, come attesta, più di ogni altro, il caso della devozione per il Sacro Cuore di Gesù nell'Italia della Grande Guerra e poi nell'Italia fascista. Si tratta di devozioni rilanciate al giorno d'oggi da una presenza capillare quasi aggressiva sul web. Piuttosto che cercare il trucco nelle devozioni, Emma Fattorini prova a riconoscere una logica storica nelle fasi successive della loro duratura fortuna. E ci riesce. Nel secondo Ottocento, l'esplosione di Lourdes rappresentò una risposta cristiana all'offensiva conquistatrice di una scienza medica talmente fiduciosa di se stessa da credersi onnipotente e che invece doveva pur confrontarsi con le malattie incurabili, con il dolore, con la speranza, antica quanto il mondo, di un intervento prodigioso e salvifico. Nell'età della Prima Guerra Mondiale e poi negli anni 20 e 30, il boom di una rinnovata religiosità popolare corrispose alla reazione di una società dapprima traumatizzata dall'enormità del conflitto, poi frustrata dalla modestia dei suoi risultati, mentre la fortuna a noi contemporanea di devozioni come quella per la Madonna di Međugorje, in Bosnia-Erzegovina, sembra rispondere a bisogni della mente piuttosto che del corpo. Più che miracoli di guarigione, Međugorje produce miracoli di conversione, rimedia alla depressione, alla mancanza di senso, alla fatica di vivere diffuse, scrive la Fattorini, nella liquidità dei nostri tempi insicuri. Certo, tutta una parte del mondo cattolico aveva potuto augurarsi negli anni 60 e 70 del Novecento uno sviluppo delle cose differente. Il teologo svizzero Hans Küng scriveva nel 1968: «Si dovrebbe aver preso atto della pericolosità del degenerante marianismo, che manca di vicinanza alla Bibbia e di una concezione cristocentrica. La cultura del Concilio Vaticano II trovava le devozioni popolari, il culto dei miracoli, la materializzazione della fede, qualcosa di improprio e quasi di imbarazzante, un sinonimo di arretratezza per non dire di sottosviluppo. In Italia i piani pastorali della CEI proponevano al cristiano qualità di impegno e di continuità nella fede diverse da quelle proprie di un pellegrino in marcia verso il convento di Padre Pio a San Giovanni Rotondo in Puglia o verso la Madonna Nera di Częstochowa in Polonia. In mezzo fra l'allora e l'adesso sta la figura, anche in questo decisiva, di Papa Wojtyla, lo studente polacco di teologia che fin dal 1948 aveva compiuto il suo pellegrinaggio nel Gargano, si era votato a Padre Pio. L'arcivescovo di Cracovia, che negli anni 60 aveva rilanciato, per quanto il sistema comunista lo permetteva, il culto della Madonna Nera, e il Santo Padre che nell'ultimo quarto del Novecento ha accompagnato l'ultima metamorfosi moderna delle devozioni popolari. Non più autarchici prodotti nazionali, ma sapienti combinazioni di radicamento regionale e irradiamento internazionale, sofisticate miscele di localismo e globalismo. Prodotti glocal. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi del commento di Sergio Luzzatto al libro di Emma Fattorini Italia Devota, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. In occasione del centenario della nascita di Fosco Maraini, la casa editrice Corbaccio ripropone il suo primo libro, nel quale il noto scrittore e alpinista ripercorre le tappe di un viaggio nella regione dell'Himalaya che i tibetani chiamano Drenjong. Senza la pretesa di fare della scienza, scrive Maraini, ma con lo scopo di condividere con il lettore le emozioni vissute, come in queste righe, dove cerca di spiegare le ragioni che spingono un esploratore ad affrontare le scalate. La montagna, come tutte le passioni, è una pazzia agli occhi di chi è immune dal contagio. E per comunicare occorre anzitutto il consenso dell'animo. Che vale altrimenti tentare spiegazioni e apologie? Le parole restano flatus voci, non sanno evocare, né possono avere all'orecchio del profano i significati nascosti che hanno per l'iniziato. Perché andiamo in montagna? Quante volte mi sono rivolto questa domanda? Me la sono rivolta mentre ansimavo salendo faticosamente verso un rifugio lontano, sotto il peso di un sacco stracarico. Me la sono rivolta su certe pareti insensate quando le dita stringevano in una morsa spasmodica dei minuscoli appigli e i piedi poggiavano appena sulle vigate superfici sfuggenti verso incolmabili abissi. Me la sono rivolta di notte, sperduto sul fianco d'una cima inviolata, giacendo senza riparo, battendo i denti pel freddo. E me la sono rivolta quando degli amici mi riportavano ferito a valle, oppure all'annunzio che un compagno aveva perduto la vita. Ma non ho mai trovato la risposta esauriente. Nessuno me l'ha saputa dare. Ho sentito ripetere che la montagna è bella, bellissima, e che l'alpinismo è il culto di questa bellezza. Io trovo invece che la montagna è orrida, povera, monotona. In quanto a bellezza, essa non può reggere il confronto con la più semplice veduta di colline o col più modesto scorcio di borgata per la sua esasperante inumanità. Di questo ne è riprova il fatto che non si può nominare una sola pittura di grande classe ove la montagna domini come personaggio esclusivo, come ispirazione fondamentale. Qualcuno mi ha assicurato che la montagna è fonte di perfezionamento per lo spirito. Anche questa mi è sempre parsa un'illusione, se deve intendersi affinamento negli attributi più nobili dell'animo. Essa rende insensibili, duri, rupestri. Essa addormenta ogni immaginazione, come è giusto avvenga infatti quando si debbono percorrere dei luoghi irti di innumerevoli e micidiali pericoli, dai crepacci dei ghiacciai agli appigli malsicuri delle pareti rocciose, dalle valanghe di neve alle scariche di sassi, dal vetrato alla nebbia, dalle tormente ai fulmini, dal rompersi d'una corda allo sradicarsi d'un chiodo. Infine, ho sentito ripetere da moltissime parti che l'alpinismo rinforza la salute e rinvigorisce il corpo. Ciò è innegabilmente vero, anzi, direi che è incredibilmente vero, perché spesso i più folli strapazzi, dopo un sonno riparatore, danno un senso di perfetta euforia. Pure tanto grande è il pericolo di morte, se l'alpinismo è fatto sul serio, che i vantaggi del fisico non ne sono davvero giusto contrappeso. Basta dar calci a un pallone, nuotare o correre i 110 con ostacoli per ottenere risultati non molto dissimili, senza alcun pericolo. Dunque, no, guardando ad occhi aperti le cose, è tutta retorica quella che circola. La montagna non ha alcuna giustificazione. Eppure chi ha capito sa che essa ha un fascino a cui è impossibile resistere. Qual è dunque il suo segreto? Io credo che deve essere appunto questa gioia di violare, percorrendoli, luoghi che non sono fatti per l'uomo. Questo inerpicarsi su per muraglie da tarantole, su per spigoli da corvi e guglie da aquile e falchi, aprendosi un passaggio dove la natura ha messo delle barriere e raggiungendo, infine, le più inaccessibili roccaforti d'ogni continente. L'alpinismo è innanzitutto una questione spirituale. Nessuno sognerebbe di sobbarcarsi a certe fatiche ed esporsi a certi pericoli se l'animo non vi trovasse un indiscutibile appagamento. L'alpinismo è un'affermazione della propria personalità sulle forze avverse della natura. L'alpinismo è un combattimento senza nemici. Un combattimento, infine, ove anche le vittorie più belle non sono macchiate dal dolore causato a un vinto. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Fosco Maraini, Drenjong, il primo libro di Fosco Maraini e i ricordi dei suoi amici. Corbaccio, 448 pagine, 22 euro.